Di Gesù ti ama, ricordaglielo. Gesù ti ama. Possiamo accomodarci. Gesù ti ama. Se sei a casa comodamente sul tuo divano, forse sotto un condizionatore e hai tutta la nostra invidia per il condizionatore, ci stiamo attrezzando. Chiesa, ho una buona notizia, forse a breve avremo un raffrescatore che creerà una temperatura più idonea per questo locale. Siamo contenti, quindi venite domenica prossima, forse già sarà lì, se non domenica prossima, fra due domeniche. Ma voglio dirti anche questo, ogni goccia del tuo sudore esprime il tuo vero amore per Dio. Quindi chi è qui e sta sudando sta amando meglio di chi è a casa ed è sotto un condizionatore. Quindi dillo alla persona che ti sta a fianco, stai amando meglio il Signore, stai amando meglio Dio. Che bello essere in chiesa, che bello vedervi. Voglio dare un benvenuto agli ospiti, a chi è qui per la prima volta. Vogliamo fare un applauso senza mettere in imbarazzo chi è per la prima volta. Vedo delle facce nuove, benvenuti. Vedo Alberto che è di nuovo con noi. Reduce di una vittoria, abbiamo pregato che il Signore ti desse pace e hai sperimentato questa pace, siamo felici che Dio è reale, concreto e ascolta le nostre preghiere. Vedo Mimmo e Naomi appena sposati in mezzo a noi. Vi trovate bene perché parliamo dell'amore questa sera, ok? E io ieri leggevo di questo articolo che a Modugno qualcuno ha vinto con il Gratta e Vinci 2 milioni di euro. Questa persona è rimasta anonima, quindi potrebbe essere in mezzo a noi. Se sei parte di questa chiesa, ricordati di dare la decima. Anzi, aggiungerei, visto che non avresti mai dovuto giocare al Gratta e Vinci, vieni a parlarmene, ti porterò a piena liberazione da questo vizio e anche dalla vittoria di questo vizio. Ti farò accompagnare da qualche fratello bello che è convincente da questo punto di vista. Ok, è bello essere qui e avere a mente valori più grandi di 2 milioni di euro. Perché c'è qualcosa di più speciale di 2 milioni di euro. E posso dirti questo, non farti prendere dalla trappola del gioco d'azzardo. Uno ne vince e migliaia ne escono schiavi e impoveriti. E anche la persona che vince molto spesso perde. Quindi parliamo di gioco d'azzardo stasera, no. Voglio parlarvi di amore, voglio parlarvi del vero senso dell'amore, del significato dell'amore, perché non so se avete notato, senza alcun accordo e senza nessun discorso intavolato tra i predicatori, nelle ultime 3 settimane, questa diventa la 4ª settimana, abbiamo parlato di amore. Mike Pilavacci lo ha fatto con l'adorazione, parlandoci che l'adorazione è espressione d'amore. Poi abbiamo toccato il profeta Osea, abbiamo parlato dell'amore di Dio, di quanto lui ci fa la corte, ci desidera, ci chiama, vuole parlare al nostro cuore. Poi domenica scorsa Vito ci ha parlato dell'amore per il prossimo, dell'amore verticale e orizzontale che è espresso nella croce. Quanti sono stati benedetti domenica scorsa? Vogliamo ringraziare Vito che è qui con noi. Io credo che il Signore ci sta portando a riflettere sull'amore perché vuole portarci a delle decisioni che benediranno la nostra vita. Vuoi essere benedetto? A me, quanti vogliono? Ho sentito solo alcuni insicuri. Quanti vogliono essere benedetti da Dio? C'è benedizione da parte di Dio. La benedizione è ricchezza dall'alto, è l'arricchimento di Dio e Dio vuole arricchire la tua vita, non ti vuole impoverire. E lui ti vuole arricchire con una piena consapevolezza di che cos'è l'amore. E noi dobbiamo parlare dell'amore perché abbiamo un concetto parziale dell'amore. Nel mondo in cui viviamo abbiamo un concetto molto parziale di amore. Quando parliamo di amore pensiamo il più delle volte a quell'emozione, a quel sentimento, a quell'affetto scambiato e reciproco. I ragazzi in mezzo a noi, parlando di amore, stanno pensando al futuro ragazzo, la futura ragazza. Chloe, non sorridere, tu, non vale per te, sei ancora piccola. Sto parlando a mia nipote. Non ha dato segni. Però i ragazzi, no, pensano alla futura moglie, al futuro marito, a quello che asseconderà proprio tutti i propri desideri, quel ragazzo alto, slanciato, bello, intelligente, appagante, che tutti noi che ci siamo sposati abbiamo trovato, vero? Parla alle donne, alle mogli, no? Poi si accorcia, da essere alto si accorcia, da essere bello in forma, palestrato, prende altre forme, no? Quando parliamo di amore, le mamme in mezzo a noi pensano ai propri figli, al sorriso del proprio figlio quando lo tengono in braccio. È vero? All'amore, l'amore che una mamma prova per il proprio figlio è qualcosa che ti riempie completamente. Non lo so, però lo vedo nei vostri occhi e nelle vostre parole. Quando pensiamo all'amore per gli uomini, non lo so gli uomini a cosa pensano quando pensano all'amore. Forse al calcio, no? Alla partita, alla squadra del cuore. Quest'anno in modo particolare i milanisti, no? C'è qualche milanista che è contento di essere tale, no? Ma il vero amore si vede in quelli che fanno parte di quelle squadre in retrocessione, no? E che continuano ad amare, quello è il vero amore, e di questo vero amore voglio parlarvi. Però dobbiamo comprendere che viviamo in una società che ci presenta l'amore, quello parziale, il più delle volte quello emotivo, quello sentimentale, quello che si muove dentro e che porta le persone a dire ho amore o non ho amore. Quando invece l'amore non è qualcosa che provi, è qualcosa che scegli. E io vorrei che noi comprendessimo bene che cos'è l'amore dal punto di vista biblico, dal punto di vista di Dio, perché Dio è amore e meglio di Lui nessun altro ci può spiegare che cos'è l'amore. E in 1 Corinzi 13 noi leggiamo che l'amore è, verbo essere, questo è, non lo sto dicendo io, non è la definizione del nostro matrimonio, non è la definizione del mondo che ci circonda. Questa è la definizione dell'amore per eccellenza che dovrebbe definire i nostri matrimoni, che dovrebbe definire le nostre relazioni. Ed è Dio che ci parla e dice l'amore, prima di tutto, è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia. L'amore non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non... Sentite quanti non ci sono. È Dio che vuole farci capire. Vedete che avete un concetto sbagliato dell'amore. Io devo demolire la vostra concezione di amore e farvi comprendere che cos'è, ma per farvi comprendere che cos'è, devo farvi capire che cosa non è. Non gode dell'ingiustizia. E poi dice, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta cosa? Ogni cosa. L'amore, quello vero, quello completo, non è la sensazione temporanea. È una scelta che coinvolge la nostra mente e la nostra volontà e ci porta a fare delle azioni che non sono comode. Questo è l'amore. L'amore è la scelta volontaria di entrare in un territorio estremamente scomodo. Un territorio dove annulli te stesso per promuovere l'altro. Questo è l'amore. L'amore passa da una condizione di immaturità a una condizione di maturità quando diventa paziente. E la pazienza la si esercita nel tempo e la si matura. L'amore è un esercizio, lo maturi nel tempo. L'amore smette di essere un'emozione immatura quando diventa disinteressato, cioè non agisce per un tornaconto personale. Questo è l'amore. L'abbiamo letto. Non cerca il proprio interesse. L'amore si spinge a sopportare, sceglie di sopportare e sceglie di soffrire, è disposto a soffrire. L'amore è soffrire ogni cosa. Vi ho fatti diventare tutti molto silenziosi. Mimmo e Naomi adesso vogliono, abbiamo smantellato tutto il romanticismo che avevano portato dal viaggio di nozze. No, ma questo è il vero significato ed è bellissimo perché vedete Dio ci invita ad una vita elevata, ad una vita che è superiore rispetto ad ogni altra vita, ci chiama a quell'amore puro, completo, santo che lo contraddistingue. La scorsa settimana l'abbiamo sentito. L'icona dell'amore è la croce. Se vuoi capire l'amore, guarda la croce. Se vuoi comprendere che cos'è amore, guarda la croce, perché la croce ci parla dell'amore perfetto di Dio che si è fatto uomo per poi lasciarsi ingiuriare, lasciarsi tradire. Non fare l'errore di vedere Gesù come vittima di queste cose. Lui si è lasciato ingiuriare, avrebbe potuto non lasciarsi ingiuriare. Siamo consapevoli di questo. Siamo consapevoli che Dio non era disarmato quando è andato sulla croce, che aveva a seguito l'autorità divina di legioni, di eserciti, di angeli che potevano intervenire alla sua parola. Lui avrebbe potuto comandare dall'alto che scendessero saette, fulmini, fuoco su tutti coloro che lo stavano ingiuriando, tradendo, torturando, per poi lasciarlo morto su quella croce, appeso, e lui è morto lì per chi? Per chi lo ha tradito, per gli stessi che lo hanno ingiuriato, per coloro che lo hanno torturato, per coloro che lo hanno abbandonato. Capite? Questo è il vero amore. Per questo quando guardiamo la croce comprendiamo che cos'è l'amore. E quando guardiamo la croce siamo illuminati di quell'amore divino, di quell'amore che è miracoloso, e Dio ti chiama ad essere un miracolo vivente. Ascoltatemi bene. Ricambiare il bene, ricambiare al bene male, è demoniaco. Ricambiare bene al bene è umano. Ricambiare bene al male è divino. Lo ripeto ancora una volta, ricambiare male al bene è demoniaco, ricambiare bene a bene è umano, ma ricambiare bene al male è divino. E Dio vuole portarti a questa statura. E io spero che voi possiate afferrare questa sera che Dio non vuole darci solo miracoli nella nostra vita. Quante richieste di miracoli facciamo a Dio? Dio dammi questo, Dio opera in questa maniera, Dio agisci, Dio apri, Dio sposta, Dio permetti. E Dio dice, io voglio fare molto di più di questo. Io voglio farti diventare miracolo. Non voglio solo darti dei miracoli. Dio vuole elevarti alla statura di essere un miracolo vivente che le persone osservano e dicono: questa persona ha qualcosa di divino. Dio ci invita a questo amore. Quel Gesù che è rimasto poi appeso, sappiamo che è risorto, ha vinto la morte e in molti lo hanno seguito, non tutti. E quel Gesù ha insegnato queste parole, le voglio leggere per voi. Gesù ha detto: voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, no? Umano. Ma io vi dico amate i vostri nemici, condizione divina, miracolosa, e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani, coloro che non seguono Dio? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, miracolo, come perfetto il Padre vostro celeste. Quanti credono nei miracoli? Posso vedere le vostre mani? Quanti credono? Vedo tutti, la maggior parte. E quanti credono che puoi essere tu un miracolo potenziato da Dio? Dio ti chiama ad essere un miracolo, il suo miracolo, perché Dio ha detto che noi riceveremo potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di noi. E allora, perché lo Spirito Santo ci riempirà, noi potremo essere testimonianza sua in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Dio ci vuole potenziare di una natura divina che non è data ai nostri sforzi, alle nostre capacità o a quello che noi possiamo ottenere nella nostra carne, ma è data al miracoloso riempimento dello Spirito Santo che ci è promesso. Per voi è la promessa e per quanti dopo di voi crederanno. Io credo in questa promessa. Io credo che posso essere un miracolo vivente. Io credo che posso essere come Cristo e camminare nell'amore di Cristo. Tu ci credi? Alleluia, bellissimo. Ora, quando vediamo questo tipo di amore, amore per nemici, amore che non è ricambiato, un amore violato che risponde con del bene. Quando noi leggiamo parole così forti, quali Gesù che ci dice amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, io non lo so voi, ma io una domanda me la faccio e mi chiedo: e perché? E cosa ne guadagno? A cosa serve? Ve lo siete mai chiesti? Forse sono solo io estremamente sincero a dire questo, però a volte io davanti a circostanze molto, molto reali, molto concrete, quotidiane, dico: Signore, perché dovrei? Per assecondare il male dell'altro? Asseconderei il male dell'altro? Lo inviterei ad aggiungere ingiustizia all'ingiustizia già avuta? Non li fate anche voi questi pensieri? C'è un guadagno, c'è qualcosa che noi possiamo portarne a casa nell'atteggiarci in questa maniera, nell'amare i nostri nemici. Qual è il guadagno? Conviene veramente? Forse qualcuno mi sta guardando dicendo: la domanda è posta sbagliata, perché non puoi chiedere il guadagno per quello che è un amore. E nel porti questa domanda stai tornando ad essere egoista, a pensare in termini economici, che cosa dai da guadagnare in tutto questo. Però io credo che non sia sbagliato chiedercelo, perché Gesù parla in termini economici. E l'abbiamo già letto, ma ve lo voglio rileggere in Luca 6, perché qui è proprio evidente quello che Gesù dice, il guadagno che ne viene, c'è un guadagno che ne viene. Gesù dice: amate i vostri nemici. E vedete, notate bene, è un altro Vangelo. E quasi in ogni Vangelo troviamo Gesù che ripete questo comandamento. Quindi non è che gli è sfuggito o qualcuno l'ha scritto male, qualcuno degli evangelisti ha sentito male, ha riportato amate i vostri nemici come comandamento di Gesù perché ha sentito male quello che Gesù ha insegnato. No, no, hanno sentito bene, Gesù l'ha ripetuto. E se è scritto più volte nel testo biblico, significa che verbalmente deve averlo ripetito decine e decine di volte. E in Luca leggiamo che Gesù dice: amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande. Vi posso dare una buona notizia stasera, perché vi vedo un po' abbattuti alla luce di tutto quello che ho detto finora. C'è una buona notizia in tutto questo. C'è un premio per chi fa proprio l'amore divino che è rivolto anche nei confronti dei propri nemici. Il vostro premio non dice solo che ci sarà un premio, dice che il premio sarà grande. Gesù ci tiene a dire in termini economici che c'è un premio, e già questo è entusiasmante, perché noi sappiamo chi è che sta dando il premio. Non è il palio del gratta e vinci, lo Stato che dà in base a quanto ha raccolto. Noi stiamo parlando del Dio che ha in sé ogni ricchezza, che è il più ricco di tutti. E quindi se Lui è generoso nel dare un premio, il premio è straordinario. Se poi dice che quel premio è grande, non oso immaginare. Gesù dice il premio è grande. E poi dice sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Quindi per dirlo a punti, che cosa c'è da guadagnare? Uno, premi eterni. Un grande premio eterno, perché senza ombra di dubbio Gesù sta parlando dell'eternità. Sta parlando dei premi che ci attendono quando lasceremo questa vita terrena e vivremo per l'eternità, non per una stagione ridicola e misera e molto stretta, quale la vita terrena, ma per l'eternità avremo un premio, una ricchezza. Dio ci invita a guardare alla vita eterna. Quest'anno, come Chiesa, il Signore ci ha portato a guardare in alto alle cose eterne, alle cose che durano. Non ami i tuoi nemici con la speranza che questi nemici divengano necessariamente amici. Li ami perché è Dio che ti dà dei premi. Premi celesti, ma due, benedizioni terrene. Perché notate bene, Gesù non dice il vostro premio sarà grande solo in eternità. Dice il vostro premio sarà grande. Punto. Sarà grande. Il tuo premio è grande. Quando ami i tuoi nemici, quando ami nel momento in cui la tua carne ti porta a vivere piuttosto sentimenti di vendetta e di giustizia e di rancore, quando la tua carne ti porta a chiudere, a rompere ponti, a chiudere muri, a barricarti dietro porte, se tu vai oltre tutto questo e ami, Dio ti premia in eternità, ma anche in benedizioni terrene. E poi dice, sarete figli dell'Altissimo. Io vorrei che noi comprendessimo bene che Gesù sta dicendo che non è nel momento in cui noi amiamo i nostri nemici che otteniamo salvezza eterna, non è in virtù di opere, è per la croce di Gesù che tu hai salvezza eterna. Siamo d'accordo su questo? La tua salvezza è perché Gesù ha pagato il prezzo di tutti i tuoi peccati, di tutte le tue mancanze su quella croce. Ma dice sarete figli dell'Altissimo. E un figlio è qualcuno che porta lo stesso DNA. Un figlio è colui che assomiglia al padre. Non sapete quante volte mi dicono quanto assomiglia a tuo padre. Il che è preoccupante, no? Perché comunque mio padre ha oltre 70 anni. Poi da quando mi sono spuntati i capelli bianchi, lo dicono ancora di più. Qualcuno addirittura mi ha scambiato per mio padre. Pastore Pino. No, sono il figlio. Quanto sarebbe bello se le persone guardando noi dicono Gesù. Non come esclamazione negativa, Gesù. No, ma perché vedono Gesù. Vedono qualcosa di incomprensibile. Il nostro marito, la nostra moglie ci vede e dice vedo Gesù in te. E posso dirlo pubblicamente, io vedo Gesù in mia moglie. Io vedo Gesù quando lei mi perdona, quando lei mi accoglie, quando lei mi accetta così come sono. Quando è paziente, quando si sacrifica per me, quando mi prepara un piatto, quando lava casa, quando fa servizi, io vedo Gesù in lei, perché nessuno le ha puntato una pistola alla tempia per dire devi fare questo, è sua volontà amarmi, venirmi incontro, cercare i miei bisogni, entrare in ufficio poco prima di questo incontro e portarmi un caffè, perché sa che ne ho bisogno, perché devo predicare sveglio, attivo e arzillo. Gesù, tra di noi dovremmo poterci guardare e dire Gesù, vedo Gesù, e io lo vedo Gesù, Io lo vedo Gesù. Io vedo Gesù ed è meraviglioso quando puoi vedere Gesù. Siamo portati a credere che Gesù non si vede, che è invisibile. Ma Gesù ci dà la grazia di essere quel miracolo vivente che lo rappresenta. E badate bene, pesate le parole di Gesù, dice: sarete figli dell'Altissimo. Dell'Altissimo. Dell'Altissimo. Dio ha tanti nomi e Gesù avrebbe potuto dire tanti nomi del Creatore, del Dio potente. No, dà questo nome a Dio, riferendosi alla statura di Dio. È altissimo non perché è lontano, è altissimo perché si eleva sopra ogni carnalità e ogni cosa che ha a che fare con il male di questa società, di questa terra. Lui è l'altissimo, il separato perché è santo, tre volte santo. E Gesù dice: sarete altissimi con Lui, sarete figli dell'altissimo, avrete il DNA dell'altissimo. Dio ti vuole elevare a una vita alta. Dio ti vuole elevare a una vita superiore rispetto a quelli che dicono: vendicati, non è giusto, ricambia male con male, fatti valere, perché fai questo e ti umili? No, io sono figlio dell'Altissimo e per quanto tu non possa capire quello che faccio, Dio lo vede e mi dà il suo premio. Premi eterni, premi terreni, essere simili a Cristo, rappresentare Cristo. Voglio ricordarci, Chiesa, che il nostro ruolo come cristiani è rappresentare Cristo e poi ancora segnare la vita di coloro che beneficiano del nostro amore. Se andate su YouTube e cercate mogli, madri che perdonano per torti che i loro figli hanno subito, arrivi davanti a storie che hanno dell'incredibile. Io mi sono imbattuto in un paio di esse. Madri che sono state disposte a perdonare ragazzi che hanno ammazzato i loro figli. C'è una madre che in una sentenza davanti all'assassino del suo figlio lo ha guardato e gli ha detto: io ti ammazzerò. E dopo quella dichiarazione ha cominciato ad andare nel carcere per visitare questo ragazzo, l'assassino del suo figlio, e per condividere dei tempi e per aiutarlo. Era un ragazzo abbandonato, solo, un ragazzo di strada. E quando è uscito, quando doveva uscire, ha chiesto a quel ragazzo: che cosa farai quando esci? Sai dove andare? E l'assassino di suo figlio gli ha risposto: non so dove andare. E la madre del figlio assassinato dice: ti aiuterò io, ti troverò un lavoro, ti accoglierò in casa. Questo assassino finisce per essere il figlio adottato dalla madre che ha perso suo figlio a causa sua. E un giorno, chiamando questo ragazzo, sedendosi a tavola con lui, l'ho guardato negli occhi e gli ha detto: ti ricordi quando io ti ho detto che ti ammazzerò? Lui ha detto: come potrei dimenticarmi? Quello è stato il giorno più buio della mia vita. Quella donna ha detto: da quel momento in poi io ne ho fatta la mia missione, ammazzare quel ragazzo che era violento, quel ragazzo che era cresciuto senza una giusta educazione. È stata una mia missione ammazzare quel ragazzo che sapeva solo esprimere appartenenza a una gang, cercando di farsi valere, sentirsi amato attraverso gesti sbagliati. E oggi posso dire che io ti ho ammazzato, perché tu non sei più lo stesso. Dio vuole fare di te un missionario che ammazza il male nei tuoi nemici. E forse avrai successo come questa donna, e forse avrai anche insuccesso, perché ricordiamolo, Gesù su quella croce è morto per tutta l'umanità. ma oggi c'è ancora chi, guardando a quella croce, continua a ingiuriare, continua a prendersi gioco di Gesù, continua a non sentire il suo amore. Ma Gesù è morto anche per quelle persone, anche per te che sei venuto questa sera e sai di essere un peccatore lontano da Gesù, di non averlo rappresentato bene. Gesù ti dice: io ti amo, io sono morto su quella croce per te, ti amo, perché questo è l'amore divino. E in ultimo, il premio dell'amare i nostri nemici e liberarci del male. In 1 Pietro, al capitolo 4, versetto 8, c'è scritto: soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Quando tu ami, tu ti liberi. Quando tu ami, scegli di lasciare il male e di afferrare il bene. Quando tu ami, ti allontani dal diavolo e ti avvicini al Dio Altissimo. E io voglio invitarci questa sera a scelte pratiche, perché credo che sto parlando al cuore di molti che sanno nel proprio cuore che devono fare una scelta questa sera. E posso portarti a scegliere di amare la Chiesa, perché questo verso ci parla in modo particolare gli uni degli altri nella Chiesa. Ama la Chiesa. Ama la Chiesa con sacrificio. Ama la Chiesa con sofferenza. Ama la Chiesa perdonando. Ama la Chiesa accogliendo. Ama la Chiesa con ogni umiltà, quella che Gesù ha manifestato, lavando i piedi di 12, non di 11. Gesù ha lavato i piedi di Giuda. Ama e servi, non solo i fratelli che ti vanno a genio. Ama, servi anche il Giuda, perché Gesù ci ha dato esempio di questo tipo di amore. Ama, servi con vigore. Mercoledì avremo l'incontro di condivisione. E io ti invito, se sei parte di questa Chiesa, non rimanere a casa. Vieni qui, parleremo del sogno che il Signore ha per la nostra Chiesa, della missione che Dio ha in mente per noi. Su questo palco sentirete persone che non avete mai sentito anche guidare la lode. Vero Giuseppe? Sei pronto per mercoledì? Più o meno. E parleremo della missione che abbiamo in comune. Amore di la missione di servirci gli uni gli altri. Servire in varie aree della Chiesa, perché nel servire noi facciamo di questo contesto un contesto di amore, di benvenuto, di accoglienza per molti. E noi, voglio ricordarci, siamo Chiesa non per cantarcela e suonarcela tra di noi. Siamo Chiesa per accogliere i molti. Non mancare mercoledì e non mancare di fare scelte questa sera. Quando finisce questo incontro, vai a salutare qualcuno. Vai a dare una parola profetica di incoraggiamento. Vai a sorridere a colui che mai ti sorride e mai ti saluta. Prendi un impegno di visitare una persona anziana durante questa settimana, o qualcuno che sai che non sta bene ed è solo. Prendi l'impegno questa sera di mandare un messaggio a qualche fratello che non vedi nel nostro mezzo, perché siamo insieme in questa missione di amore per accogliere e per legare alla famiglia quanti non sono amati. Vogliamo alzarci in piedi. Voglio invitare quanti questa sera vogliono far propria questa parola e dire: sì, io voglio vivere la Chiesa con questa intensità, e voglio vivere il mio matrimonio con questa intensità, io voglio vivere il rapporto con i miei colleghi con questa intensità di amore divino, miracoloso, che viene dall'alto. Qualcuno ha detto giustamente, parlando di matrimonio, che non è l'amore che crea il matrimonio, è il matrimonio che crea l'amore. Perché il matrimonio è la palestra dell'amore, come anche la Chiesa è la palestra dell'amore. Non venire qui con l'aspettativa di essere amato, vieni qui con l'aspettativa di amare e di crescere nell'amore, che è una scelta, lo voglio ricordare a tutti noi, consapevole, volontaria, che coinvolge la nostra mente, è la nostra azione. Chiudiamo i nostri occhi, facciamo una scelta questa sera. Se con me questa sera dici: io voglio vivere il miracolo dell'amore, quello divino, non quello umano. Allora ti chiedo, dove sei? Alza le tue mani. Vogliamo arrenderci a Lui. Nell'amore abbiamo da perdere tutto, da perdere ogni cosa. Nell'amore abbiamo da annullarci completamente, ritrovarci su una croce, ammazzati dai nostri nemici. Sembra una sconfitta, sembra una perdita. Ma quando perdi tutto, allora guadagni veramente ogni cosa. Quando perdi la tua vita per causa di Dio, la ritrovi veramente. Non lo fai per cambiare l'altro, lo fai per cambiare te stesso. E per far tua l'immagine di Cristo. Qual è il gesto migliore se non alzare le nostre mani in segno di arresa? Per lasciare tutto. Gesù, lasciamo tutto. Io ti ringrazio per chi sta lasciando tutto ora. Io ti ringrazio per lo Spirito Santo che è presente qui e ci attira a te e ci fa vedere che, Gesù, assomigliarti non è da perdenti, ma è da vincenti. Bellissimo essere attratti da questo tipo di vita assurda, pazza, irriconoscibile per il mondo, ma divina, miracolosa. Gesù, di più di te in noi, di più di te in noi, di più del tuo atteggiamento, della tua attitudine. Ministra ora, Spirito Santo, nei cuori che sono rotti, che sono feriti da torti, da ingiustizie. Tu non tratti con leggerezza queste cose, Gesù. Tu anche dici: lasciate a me la vendetta, perché ci sarà giustizia. Nessun torto rimarrà impagato, ma non vogliamo impugnare noi lo scettro della giustizia personale. Vogliamo lasciarlo a te. Sii tu la nostra giustizia, sii tu il nostro vendicatore, sii tu colui che si prende carico dei torti dei nostri nemici. E noi preghiamo per loro, Gesù. Io voglio pregare per tutti i nemici, di ogni mio fratello, di ogni mia sorella. Nemici lontani, lontani perché magari distanti nel tempo, nella propria infanzia. O anni fa qualcuno che ha tradito, ha ferito, ha abbandonato. O amici presenti, vicini. Gesù, io a nome di tutti noi chiedo di perdonarci per il male che abbiamo ricambiato al male subito. E a nome di tutti noi ti prego, Signore Gesù, in questo momento di liberarci dal peso delle ingiustizie, dal peso del dolore. Libera ora, Signore Gesù. Libera mettendo in noi una divina e miracolosa capacità di perdonare, di porgere l'altra guancia, di lasciare anche il mantello, di benedire coloro che ci maledicono, di pregare per chi ci perseguita. Alleluia. Grazie, Gesù. Grazie. Se siete d'accordo con me, vogliamo fare una preghiera per la nostra Chiesa. E nel ripeterla con me è come se la facessimo tutti. Vogliamo pregare per la nostra Chiesa affinché possa essere un contesto di amore, un contesto di grazia. Anche quando ci sono le imperfezioni, anzi proprio quando ci sono le imperfezioni, proprio quando ci sono parole di troppo, proprio quando ci sono torti. Non possiamo pregare a Dio di renderci perfetti e tutti all'istante capaci di non fare più torti a nessuno e parlare sempre bene, comportarci sempre bene, ma possiamo pregare insieme, Chiesa, affinché il nostro contesto possa essere un contesto dove con facilità si elargisce perdono e si ricambia il male col bene e ci si riporta tutti in quella condizione di grazia. Se sei d'accordo con me e se vuoi questo per la tua Chiesa, per la nostra Chiesa, allora ripeti con me queste parole con decisione e di con me: Signore Gesù, fai della nostra Chiesa una comunità di amore, una comunità di perdono, una comunità di servizio reciproco, una comunità di soccorso, una comunità che vede chi è solo, una comunità che sa amare chi è debole, una comunità che sa incoraggiare chi è scoraggiato, una comunità che non punta il dito, ma una comunità che abbraccia e che bacia e che offre grazia. Padre, lo preghiamo nelle nostre relazioni e per ogni conflitto attuale. Noi preghiamo la tua grazia e il tuo sangue che possa sciogliere ogni tipo di dissapore, ogni tipo di amarezza, ogni rancore. E Padre, in ultimo preghiamo affinché questa Chiesa, la nostra Chiesa, possa attirare i peccatori, possa attirare chi è smarrito, possa attirare chi è senza amore, perché in noi vede l'amore puro. Solo tu ce lo puoi dare, Padre, e noi lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Alleluia. Amen. Forza, facciamo un applauso più forte al Signore. E lo vogliamo lodare, lo lodiamo insieme, perché è degno di ogni lode.